E allora, a questo punto, siamo a metà quasi del cammino. Eh beh, sì, sono le tre, siamo a metà. Aspetta, non ti do ancora la linea, perché parlerai dopo quella che era caratterizzata del tuo programma, la tua sigla, spiegherai il perché, ovvero sia il brano dei Venom, Witching Hour. Eccomi, dopo 5 anni lontanissimo dalle frequenze di Rock FM, sono felicissimo di tornare e... con quella che era la mia sigla, ossia Witching Hour, pezzo dei Venom dal loro Welcome to Hell del 1981. Lo spazio a disposizione è un'ora e come facciamo a farci rientrare 20 anni di musica estrema? Non si può, come dire, qualcosa abbiamo dovuto per forza lasciare fuori. Ci siamo concentrati sui primi 10 anni fino al 90-91, a volte mettendo pezzi anche post-datati rispetto al 91 di certi gruppi, altre volte mettendo dei pezzi demo, rarità, cose un po' così. Cominciamo con una versione live di Slayer, il pezzo è Cutters of Sin. Captors of Sin, pezzo degli Slayer in studio da Haunting the Chapel, nella versione che abbiamo appena ascoltato invece da Live Undead, un finto live registrato in studio con una cinquantina di persone, ristampato il CD, si trova tranquillamente, potete andare a prenderlo se volete, così come si trova in bene o male tutte le salse, uno dei più seminali mini LP della storia, stiamo ovviamente parlando di Hellhammer, il pezzo è Massacra. Qui dopo già due pezzi non li fai addormentare, c'era gente dal sito rockfamily.it che dice basta, vado a dormire, e l'altro dice sì, ci riesci con questo delirio, anche se ho sulla cuffia mi sa che con questo sound riesco a svegliare tutti, insomma li stai mettendo capo, sappiate che il peggio deve ancora venire. Il peggio deve ancora venire naturalmente, vabbè, questo però è il suo voluto, spazio, ho voluto assolutamente oltrepassare i limiti umani. Sono le cose più leggere che hai, queste, è vero, tranquillo. Le più ascoltabili. Le più ascoltabili. Quelle registrate con anche un 8 pista anziché un 4. Sono le più commerciali, sì, diciamo. Anche perché, hai voluto andare però un po' alle origini. Esatto, ho pescato dei gruppi che hanno le proprie radici nella prima metà degli anni 80, per quanto possibile. I Burzum me li hai portati? No, Burzum no. Vabbè, pazienza, vabbè. Cosa c'è la prossima? La prossima è Bathory, il pezzo, come dicevo, in particolare di questo è di fine anni 80, però Bathory sono attivi già dall'83-84, quindi rientrano perfettamente in quella che ho voluto, nell'area che ho voluto definire per questa mia ora a disposizione. Il pezzo è tratto da Bloodfire Death, loro sono Bathory e si chiama il pezzo The Golden Walls of Heaven. The Golden Walls of Heaven, The Bloodfire Death, uscito su Under One Flag nell'88, se non ricordo male. Quarton passato a miglior vita qualche anno fa, adesso starà probabilmente sorseggiando idromele da sotto i tavoli del Valhalla con i suoi amati dei nordici. Noi cambiamo continente, andiamo a in California, loro si chiamano Possessed, un disco fenomenale, batterista un cane allucinante, però insomma va detto perché è vero. È Cristadoro? No, Cristadoro è crema, ma lo è, sul serio? E loro sono Possessed, naturalmente, il pezzo è Death Metal. Ore 3:20 minuti e 57 secondi antimeridiane di sabato 17 maggio 2008. Bravo, di che siamo in diretta, perché siamo in diretta, ma naturalmente, ma ça va sans dire, caro Marco. Hai imparato anche il francese? Naturalmente. È andato via 5 anni, bravo, ti sei acculturizzato. No, più che altro sono andato a imparare il toscano per 5 anni, purtroppo. Io abitavo qui in zona, poi i casi della vita mi hanno voluto a Prato. E quindi torna al death, vai. Torno al death metal dei Possessed. Prima ho detto che il batterista era un cane, non è vero, è un maiale, perché si chiama di cognome Sus, che in latino vuol dire appunto maiale, scrofa. E nome Nestomen, e noi passiamo oltre, andiamo ai Celtic Frost, nati dalle ceneri degli Hellhammer svizzeri, favoriti di Hans Rudiger. Il pezzo è tratto da Tommy Gazzarion e si chiama Beyond the North Winds. We'll be right back. Celtic Frost, allora, Beyond the North Winds era il pezzo che abbiamo scelto dall'album Tomegatherion, insomma, se si vuole usare una pronuncia un po' più chic. 1985 per i nostri svizzeri. Abbiamo passato in rassegna alcuni gruppi europei, alcuni americani, ora ci trasferiamo da tutt'altra parte del mondo, andiamo in Giappone. Attivi dal 1984, loro sono la più antica black metal band tuttora in circolazione. Andiamo a scegliere un pezzo dal loro Carmag Massacre, si intitola The Answer Is Hell, e loro sono il Sabbath. Allora non ti tolgo assolutamente spazio, manca poco alla fine di questo brano, ma hai ancora 30 minuti, caro Luca. Intanto vado a salutare un po' di amici che stanno inviando gli sms al 335-100-7777, oppure alcuni sono sull'urlo box in rockfamily.it. Salutiamo Fefo su un'auto, poi c'è Spitti Teti su un'altra, che sono in quelle di Pontedera, l'area Gens, dove sta mettendo i cd anche la nostra Claudia. Però loro ci hanno seguito nel primo periodo, poi sono andati in discoteca, sono riusciti, ci stanno seguendo, e mi giustamente, avendo perso alcuni passaggi, ci chiedono se il power è già passato. No, poi ci sarà nelle ultime due ore di nuovo insieme a Max e al sottoscritto. Intanto ricedo il microfono al buon Wichina War Luca. Cosa abbiamo, qualcosa dal Perù l'hai portato stasera? No, ho tralasciato la floridissima scena sudamericana. Sapevo che eri molto attivo anche su quello. L'est europeo l'ho dovuto lasciare da parte assolutamente, così come tutto l'emisfero australe, l'Australia. Allora vado a casa, guarda. Mi dispiace, vabbè, sono veramente... Vabbè, dopo il Giappone dove sono andiamo? Sono costernato, andiamo in Germania nella Ruhrpott. Loro sono Creator, il pezzo è Betrayer. Extreme Aggression, allora salutiamo i Creator. Mi è veramente dispiaciuto tralasciare altri gruppi che mi state richiedendo, come Emperor oppure Napalm Death, primi Sepultura, così. Purtroppo un'ora è un'ora e bisogna fare delle scelte. Ho preferito privilegiare dell'altro materiale tipo appunto Creator, oppure tipo Obituary, che andiamo a sentire ora dal loro esordio discografico Slowly We Rot, e questa è la title track per gli Obituary. Thank you. Marcatissime le influenze Celtic Frost per gli Obituary, Obituary che prima si chiamavano Executioner e con questo nome avevano rilasciato un 45 giri autoprodotto assai improbabile da trovare in giro e partecipato ad una compilation con altri mostri sacri del calibro di Sadus e altra gente simile. Restiamo in America, negli Stati Uniti d'America, in California. Loro sono Dark Angel, sono uno dei gruppi, a mio parere, più fondamentali per la crescita tecnica del genere estremo, e qui li troviamo al loro apice. Il pezzo è la title track del loro Time Does Not Heal, che conteneva qualcosa come 260 riff diversi di chitarra. Dark Angel. Dark Angel dalla California, Stati Uniti d'America. Ebbi l'occasione di vederli in questo tour a Gravelona Toce, in provincia di allora Novara, ora Vermania, assieme a Reanimator e i Jester Beast nel 90. Ero un sedicenne sbarbatissimo, però i Dark Angel mi impressionarono parecchio. 1986, andiamo a vedere cosa combinavano i Morbid Angel. Album rimasto inedito fino al 1991 per i Morbid Angel, quindi questo è uscito postumo, è uscito nel come terzo lavoro ufficiale, diciamo, però registrato nell'86 con una formazione assolutamente diversa. Qui le influenze dei Morbid Angel emergono in maniera clamorosa, sono insomma quelle dei gruppi dell'epoca, se si parla di Slayer, si parla in maniera minore di Celtic Frost e tanto, tantissimo heavy metal puro. Judas Priest piuttosto che certo hard rock dei Rainbow, secondo me, io ce li vedo, non so voi. Poi passiamo oltre, cosa avevamo messo adesso? I Poison. No, non sono i Poison, sono gli Slaughter, ma non quelli americani, bensì quelli canadesi, da Toronto, Ontario. Questi sono gli Slaughter, Nocturnal Hell. We'll be right back. Slaughter, ovvero sia una miscela esplosiva di Discharge, certi Black Sabbath e Celtic Frost, naturalmente, certo, senz'altro. Passiamo ora oltre, andiamo a riprendere i Mayhem quando erano ancora tutti vivi, e questa è Carnage. Mancano esattamente 4 minuti alle ore 4, sono le 3.55 di sabato 17 di maggio, siamo in diretta, Marco Gravelli ma soprattutto Luca Marchetti alias Witching Hour, il prossimo sarà l'ultimo pezzo, li hai fatti digerire tutti, sono tranquilli? Io penso di sì, io penso che siano tutti abbastanza esausti da questa ora, però ci voleva veramente. Ci voleva, era giusto ridare il tuo spazio che è sempre stato caratterizzato nelle nottate del giovedì, dalla mezzanotte alla una del mattino. Vi ringrazio davvero ancora ragazzi. Prima per di l'opportunità. Lasciarti all'ultimo pezzo, poi ricordiamo che ci ribasseremo ancora tutti e quattro. Naturalmente. Io, Max, te e Simone, sino alle ore 6, quindi ci sono altre 2 ore. Ringraziamo Michael, anche però la trasmissione televisiva Chi l'ha visto, che ci ha permesso di ritrovare Luca. Esatto. Grazie. Avevamo perso Federica Sciarelli. Ecco come si chiamava, non mi veniva in mente. Grazie Max. Come ultimo brano dove andiamo? Nuova Zelanda? No. Vi ho detto, non c'ho nulla dell'emisfero australe, me ne dispiaccio veramente. Anche noi, guarda. Non vedevi l'ora, eh? Esatto. Preparati per il 31, allora. Naturalmente. Allora, questo pezzo poteva essere un qualsiasi altro pezzo, non c'è nessuna ragione particolare per cui ho scelto questo piuttosto che un altro, tanto vale. Tutti uguali. Allora, grazie, buonanotte, non lo mettiamo, continuiamo noi, allora. Dall'esordio degli new yorkesi Immolation, Dawn of Possession, il pezzo è Into Everlasting Fire, e grazie per aver grazie Luca. Grazie per tutto, veramente. Non essere timido, puoi continuare a parlare. Oh, grazie, davvero. Grazie per avermi sopportato per questa ora. Corno al cielo e fottuto rock and roll, questo è lo speciale Hard and Heavy Nightmare. Questa era l'ora di Witching Hour, tra poco torniamo a roccheggiare. Punto. Spacchiamo il minuto. Lo so, qui bisogna. Voglio vedere la 24 ore finale se riusciremo a spaccare le mezz'ore esatte, però quello sarà veramente difficile. Non ce l'abbiamo mai fatta, figurati l'ultima, caro Max. Qui qualcuno comincia a dire: ma adesso Max è tornato perché se l'è dormita, no? No, sta ragazzi. Già. Masterizzando, ma preparando quello che abbiamo fatto precedentemente, cioè le prime due ore. Visto che tutti state chiedendo registrazione di questa lunga notte speciale Hard and Heavy Nightmare, è logico dobbiamo che lavorare.